Al-A'raf. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Alif Lam Mim Sad. Alif Lam Mim Sad. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. È un libro che è stato fatto scendere su di te. Non sia a causa sua alcuna oppressione sul tuo petto, che con esso tu ammonisca e sia un monito per i credenti. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Seguite quello che vi è stato rivelato dal vostro Signore e non abbiate altri patroni che Lui. Quanto poco ve ne ricordate. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Quante città abbiamo distrutte? Le colpì la nostra severità, di notte o durante il riposo notturno o pomeridiano. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Quando li colpì la nostra severità, non poterono implorare, ma solo dire, sì, siamo stati ingiusti. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Certamente interrogheremo coloro a cui inviammo, e certamente interrogheremo gli inviati. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Poi riferiremo loro le loro azioni con perfetta conoscenza, poiché mai siamo stati assenti. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. In quel giorno la pesatura sarà conforme al vero e coloro le cui bilance saranno pesanti prospereranno. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ.

Invocate il vostro Signore umilmente e in segreto. Egli in verità non ama i trasgressori. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Non spargete la corruzione sulla terra dopo che è stata resa prospera. Invocatelo con timore e desiderio. La misericordia di Allah è vicina a quelli che fanno il bene. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Egli è colui che invia i venti, annunciatori e precursori della sua misericordia. Quando poi recano una nuvola pesante, la dirigiamo verso una terra morta e ne facciamo discendere l'acqua con la quale suscitiamo ogni tipo di frutti. Così resusciteremo i morti. Forse rifletterete in proposito. وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Nelle buone terre crescono piante in quantità per volontà del loro Signore. In quelle cattive non spuntano che a stento. Così spieghiamo i nostri segni per il popolo che si dimostra riconoscente. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. In verità mandammo Noè al suo popolo, disse, «O popolo mio, adorate Allah, per voi non c'è altro Dio che Lui. Temo per voi il castigo di un giorno terribile». قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. I notabili del suo popolo dissero, ti vediamo manifestamente sviato. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Disse, o popolo mio, non c'è errore in me. Non sono che un messaggero del Signore dei mondi. Ubelligukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun.

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Poi dopo di loro inviammo Mosè con i nostri segni a Faraone e ai suoi notabili, ma essi trasgredirono. Guarda dunque ciò che è accaduto ai perversi. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Disse Mosè: O Faraone, in verità io sono un messaggero inviato dal Signore dei mondi. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Non dirò su Allah altro che la verità. Son giunto con una prova da parte del vostro Signore. Lascia che i figli di Israele vengano via con me. قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. Se hai recato una prova con te, disse Faraone, allora mostrala, se sei uno che dice la verità. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Gettò il bastone, ed ecco che si trasformò in un serpente, ben evidente. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Stese la mano ed ecco che apparve bianca agli astanti. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. I notabili del popolo di Faraone dissero: si tratta certamente di un mago sapiente. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Che vuole scacciarvi dalla vostra terra. Cosa dunque ordinate in proposito? قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Dissero: fai attendere lui e suo fratello e manda annunzi nelle città. يأتوك بكل ساحر عليم. Che ti conducano tutti i maghi più esperti. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. I maghi si presentarono a Faraone e dissero: davvero ci sarà un premio per noi se saremo vincitori? قال نعم وإنكم لمن المقربين. Disse: sì, e inoltre sarete tra i favoriti. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Dissero: O Mosè, getti tu o tocca a noi gettare? Qala alqu. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Gettate pure, rispose. Dopo che ebbero gettato, stregarono gli occhi della gente, la spaventarono e realizzarono un grande incantesimo. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. Noi ispirammo a Mosè: getta la tua verga. E quella inghiottì tutto quello che avevano fabbricato. Così si affermò la verità e vanificò quello che avevano fatto. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Furono sconfitti e sembravano umiliati. وألقي السحرة ساجدين. Allora i maghi si prosternarono. قالوا آمنا برب العالمين. E dissero: crediamo nel Signore dei mondi. رب موسى وهارون. Il Signore di Mosè e di Aronne. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Vorreste credere prima che ve ne dia il permesso? Disse Faraone. Si tratta certo di una congiura che avete ordito nella città per scacciarne gli abitanti. Ebbene, presto saprete. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Vi farò tagliare mani e piedi alternati, quindi vi farò crocifiggere tutti. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Dissero: in verità siamo pronti a tornare al nostro Signore. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Ti vendichi su di noi solo perché abbiamo creduto ai segni del nostro Signore quando essi ci sono giunti. O Signore, concedici la sopportazione

Dissero, qualunque segno addurrai per stregarci, noi non crederemo in te. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Mandammo contro di loro l'inondazione e le cavallette, le pulci, le rane e il sangue, segni ben chiari, ma furono orgogliosi e rimasero un popolo di perversi. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Quando il castigo li toccava, dicevano: O Mosè, invoca per noi il tuo Signore in forza del patto che ha fatto con te. Se allontanerà il castigo da noi, crederemo certamente in te e lasceremo partire con te i figli di Israele. Falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun. Allontanammo da loro il tormento, ma quando giunse il termine che dovevano rispettare, ecco che mancarono al loro impegno. Fantaqamna minhum fa'aghraqnahum fil yammi bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Allora ci vendicammo di loro, li inghiottimmo nel mare perché tacciavano di menzogna i nostri segni ed erano indifferenti ad essi. وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّ بك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. E abbiamo fatto del popolo che era oppresso l'erede degli orienti e degli occidenti della terra che abbiamo benedetta. Così la bella promessa del tuo Signore si realizzò sui figli di Israele, compenso della loro pazienza. E distruggemmo ciò che Faraone e il suo popolo avevano realizzato ed eretto. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها

إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. In verità, coloro che invocate all'infuori di Allah sono suoi servi come voi. Invocateli dunque e che vi rispondano se siete sinceri. Alahum arjulun yamshuna biha am lahum aydin yabtishuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ. Hanno piedi per camminare, hanno mani per afferrare, hanno occhi per vedere, hanno orecchie per sentire. Di: chiamate questi associati, tramate pure contro di me e non datemi tregua. Inna waliyya Allahu alladhi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Che il mio patrono è Allah, colui che ha fatto scendere il libro. Egli è il protettore dei devoti. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. E coloro che invocate all'infuori di lui non sono in grado di aiutarvi e neppure di aiutare loro stessi. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Se li chiami alla retta via, non ti ascolteranno. Li vedi, rivolgono lo sguardo verso di te, ma non vedono. خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. Prendi quello che ti concedono di buon grado, ordina il bene e allontanati dagli ignoranti. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. E se ti coglie una tentazione di Satana, rifugiati in Allah. Egli è colui che tutto ascolta e conosce. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. In verità, coloro che temono Allah, quando li coglie una tentazione lo ricordano, ed eccoli di nuovo lucidi. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. Ma i loro fratelli li sospingono ancor più nell'aberrazione, senza che poi mai più smettano. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي